gran re, gran genitore, l'amor, l'onor, la volontà dei dei, il comun sangue, il regno, consigliano il perdono per Silvero e per me. Fu del destino più che nostra la colpa. Alto monarca, sei passato d'amore in me produce quel che merito a poté. Non te ne spiaccia il mio pensier. Silvero abbia l'eccesso real donzella. Il cielo vuol si faccia. Caro sposo, mia vita, anima mia, qual gioia, qual piacer. Son consolato, godete anime grandi, e s'io non sdegno a chi l'onor m'offese, per riparo d'onor dare il perdono, voi lo stesso a me date.